compagnia. Ah, grazie per l'info. Roberta, siete un mito. Io sai che sono non sono deformata, ho una deformazione professionale. Però devo dire che a me piacerebbe essere più una tartaruga che un colibrì. E il tifo, ahimè, di 4 volte, dottoressa Lettino. Tifo calcistico. Tu pensa al tifo. Sai, così è vero, un attimo perché, mi sono vedi, confusa. È una passione che ha il nome di una malattia. Puntatona qua. Quante soddisfazioni mi dai. Ecco, se poi anche perdessi qualche chilo sarebbe meglio. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Mi sconvolge questo dato di cui parlavamo ieri con il primo ministro inglese. Nel 2011 il Regno Unito era all'8% di disoccupazione, noi all'8,4%. Ora noi siamo al 13% e loro sono al 7%. Renzi sconvolto, figuratevi come possono essere sconvolti coloro che si trovano in questa situazione di disoccupati. E allora, quello di 2 giorni fa non è stato proprio un pesce d'aprile. La disoccupazione in Italia a febbraio ha toccato un nuovo record, il 13%, il livello più alto mai toccato dal 1977, da quando sono iniziate le rilevazioni Istat. Un dato sconvolgente, come l'ha definito il presidente Renzi. In un anno c'è stato un aumento dell'1,2% secco. Un anno fa era l'11,8%. Oggi senza lavoro sono 3.307.000. Naturalmente ci sono molti giovani a cui abbiamo dedicato diverse puntate di Cuore e Denari negli ultimi mesi, ma ci sono anche le persone che perdono il lavoro in età adulta e poi fanno molta fatica a ritrovarlo per tante ragioni, lo dicevamo nelle nostre anticipazioni, perché c'è, tra virgolette, la concorrenza dei giovani che oggi possono essere assunti quando riescono ad essere assunti con contratti più convenienti e vantaggiosi. Gli adulti fanno più fatica ad adattarsi a situazioni di mobilità, avere una famiglia da mantenere ci rende meno flessibili anche negli spostamenti da una città ad un'altra, e poi c'è anche la difficoltà nel candidarsi a ruoli nuovi perché non si ha l'esperienza per farlo. Magari si deve cercare qualcosa di nuovo dopo aver avuto da sempre un lavoro stabile. Ecco perché stamattina, per discutere di tutto questo, abbiamo schierato un parterre di tutto rispetto. Carlo Bassi, amministratore delegato di Back to Work 24. Buongiorno, benvenuto. Grazie a voi. Vicinissimo di casa, perché è sullo stesso piano. Siamo cugini. Esattamente. Un ex cugino, ma questa parentela la riallacciamo molto volentieri. Walter Passerini, collega, esperto di lavoro, oggi cura le pagine del Lavoro per la Stampa. Buongiorno Walter. Ciao Deborah, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Grazie. È un piacere tornare in questo studio. Lo so che sei affezionato. La guerra del lavoro è il titolo del tuo ultimo libro, dedicato a questa emergenza italiana: precariato, disoccupazione, licenziamenti, perché nessuno è al sicuro come trovare un posto dignitoso in un conflitto ormai globale. Poi avremo ospite anche più tardi il dottor Michele Cucchi, psichiatra, direttore sanitario del Centro Medico Sant'Agostino di Milano, per affrontare un po' anche l'aspetto psicologico della situazione in cui appunto si trovano le persone senza lavoro in età adulta, e le difficoltà chiaramente sono particolari in questa fascia d'età. Cercheremo di capire come affrontare al meglio una fase complessa come questa. Allora, dall'inizio della crisi i disoccupati over 50 sono aumentati di 123.000 unità. Su questa situazione si sono sprecati commenti, analisi. Noi oggi a Cuore Denari vogliamo però guardare un po' oltre e dare soprattutto qualche consiglio, qualche indicazione pratica a chi si trova in questo passaggio delicato della propria vita, dal punto di vista delle opportunità per reinventarsi, reinserirsi, ma anche dal punto di vista degli aspetti psicologici di cui non si può tenere conto. Per cui, convocazione per i nostri ascoltatori: chiamateci o scriveteci. Quando abbiamo fatto la trasmissione dedicata ai giovani, alla garanzia giovani, ai contratti di apprendistato e a tutte le forme per inserire i giovani nel mondo del lavoro, molti di voi ci hanno chiesto di dedicare una trasmissione apposita agli over 45, agli over 50. Eccoci qua, 800 24 00 24 è il numero verde. Siete over 45? Avete perso il lavoro? È successo ad un vostro familiare, ad un amico? Quali sono le principali difficoltà? Cosa vi ha abbattuto? Cosa vi abbatte? Cosa invece vi ha dato lo stimolo per rimettervi in pista senza perdervi d'animo? Chiamateci per condividere la vostra esperienza, fare delle domande ai nostri esperti, ma anche per dare dei suggerimenti se ce l'avete fatta. Cosa vi ha aiutato a venire fuori da questa situazione? Walter Passerini, comincio da te. con anche il resoconto di questo libro che è proprio in circolazione da pochi giorni, e tu lo dici con grande chiarezza nel sottotitolo del tuo volume, appunto: precariato, disoccupazione, licenziamenti, perché nessuno oggi è al sicuro. Hai analizzato in un capitolo apposito questa situazione degli over 45 che definisci vuoti a perdere, e ti chiedi se siano rottamati o risorse. Sì, esatto, è una domanda. Esatto, risorse sono una grande opportunità. Anche perché, vedi, Renzi può essere sconvolgente o sconvolto, in realtà i dati sono statisticamente quelli che hai citato, ma sono ben peggio, non voglio farmi del male, perché l'area del disagio occupazionale è molto ampia. Per esempio, ci sono 500.000 persone in cassa integrazione che è in scadenza. Ci sono... E Poletti sta già cercando appunto le risorse anche, esatto, per la cassa in deroga. Ci sono 1.700.000 part-timer involontari, cioè gente che fa il part-time non perché l'ha scelto, ma perché era l'unica opportunità. Ci sono 1.900.000 rassegnati che sono nascosti negli inattivi, sembra che non lavorino. In realtà, Deborah, qualche lavoretto lo fanno al nero, evidentemente. Certo. Quindi diciamo l'area del disagio è intorno agli 8 milioni di persone. Questo è il tema della priorità lavoro. Dentro questi 8 milioni c'è una forte componente non solo femminile, ma anche appunto over 45. Allora, risorse sì, perché vedi, si può, con l'allungamento della vita, noi abbiamo dai 50 ai 74 anni in Italia più di 17 milioni di persone. Che cosa ne vogliamo fare? Negli ultimi 10 anni... Non tutti vogliono fare i nonni o gli zii, sì, oppure andare in crociera, ecco. Oppure comprare Dudu e portarlo al parco. diciamo, cosa ne vogliamo fare? In questi ultimi 10 anni... queste fasce di età hanno recuperato, per una serie di ragioni, hanno recuperato posti, perché il doppio movimento del trattenimento delle persone sui luoghi di lavoro, che fa un po' da tampone, e l'espulsione, diciamo così, ha fatto emergere, no, una generazione di persone, forse anche due, che ha tante cose da dire. E io sto notando che, al di là della necessità di creare servizi per loro, noi sappiamo che, per esempio, che c'è un forte incentivo all'assunzione di over 50, forse le imprese non lo sanno, forse gli stessi over 50 non lo sanno, c'è bisogno di informare. Uh-huh. Però evidentemente un incentivo temporaneo di 18 mesi non è sufficiente, azzerando, diciamo che paghi il 50% dei contributi di un over 50. Perché le aziende non assumono over 50 con uno sconto del 50% di contributi? Quindi il problema è più grosso, è la capacità di gestire le diverse età nelle imprese e soprattutto gestire l'allungamento della vita nella società. Cercheremo di capirlo anche attraverso le testimonianze dei nostri ascoltatori, non vi dico in quanti già si stanno prenotando per intervenire all'800 24 00 24. Prima di sentire Carlo Bassi, Renzi non solo ha commentato il dato sulla disoccupazione di 2 giorni fa, ma ieri, a conclusione della sua 2 giorni londinese con l'incontro con gli imprenditori della City, ha parlato proprio di questi over 50. Sentiamo questo commento del Premier. Noi come politici abbiamo un dovere, che è quello di dare risposte alle ragazze e ai ragazzi più giovani che non hanno più lavoro, ma anche, lasciatemelo dire, ai cinquantenni in cui non parla mai nessuno e che quando vengono espulsi dal mondo del lavoro fanno più fatica a trovare posti di lavoro. Perché? Perché gli viene detto: beh, tu sei troppo vecchio per lavorare, troppo giovane per andare in pensione. Perché questo accada, c'è bisogno di gente che tira fuori i soldi e li investe in attività produttive in Italia. Carlo Bassi, amministratore delegato di Back to Work 24. Back to Work significa proprio letteralmente ritorno al lavoro, e infatti la condizione in cui oggi molti si trovano è proprio questa: abbiamo molta disoccupazione giovanile, abbiamo molti giovani a caccia del primo impiego e abbiamo questa nutrita schiera di over cinquantenni che non sanno proprio da che parte ricominciare. Cosa fa esattamente Back to Work? Ma ha pensato che tutto questo enorme capitale umano, perché parliamo di qualcosa che forse di pochi hanno percezione, a 50 anni sei una persona che ha fatto almeno 20 anni, 25 anni di lavoro, ha fatto un'esperienza incredibile. Io ogni tanto dico, quando parlo in pubblico, che se un paese in via di sviluppo avesse tutto questo capitale umano a disposizione, ridurrebbe di 2/3 la sua capacità di crescita. E pensiamo a persone che hanno un'esperienza che va al di là dell'aspetto tecnico, anche di relazioni, di capacità di sviluppare mercati. Sono persone che quando escono con forse anche con un po' di liquidazione, TFR, e abbiamo pensato che la soluzione poteva essere di indurli verso un mercato del lavoro che fino ad oggi era da loro ignorato o che non aveva connessioni, che era quello della piccola impresa. Ricordiamoci, in Italia abbiamo il 50% in meno delle grandi imprese della Finlandia, quindi non possiamo immaginare che la grande impresa italiana riassuma 3 milioni e 300 mila occupati, e abbiamo 3 milioni e 700 mila piccole imprese, che sono piccole e che devono crescere anche loro per potersi salvare da una crisi che altrimenti le spazza via. Se oltre a crescere, patrimonializzarsi, quindi con un'iniezione di un po' di denaro, qui anche gli istituti di credito e quant'altro, hanno anche dei lavoratori che con grande esperienza ci si possono entrare, noi proponiamo come soci, quindi non con un'occupazione, investendo anche del proprio, perché bisogna pensare che oggi back to work, tornare al lavoro, vuol dire anche investire nel proprio lavoro. Beh, si può creare un sistema, come noi stiamo creando nei numeri che stiamo producendo e nelle situazioni che stiamo producendo, per cui qualcuno si rioccupa, diventa imprenditore, come tanti comunque sono costretti a scegliere in questo momento. E magari si galvanizza anche un po'. Guardi, molto delle cose entusiasmanti delle 15-20 persone che noi vediamo al giorno è che questa idea fa uscire anche da una crisi esistenziale che il licenziamento a 50 anni ti ha indotto, perché ti fa immaginare di poter essere di nuovo vivace e vivo, e magari di dedicarti a qualcosa di diverso di quanto non hai dovuto anche per forza fare negli ultimi 15-20 anni. Quali sono stati, in questa vostra esperienza degli ultimi anni, i settori più vivaci, quelli che hanno accolto meglio queste figure professionali momentaneamente vacanti sul mercato? Allora, la figura che viene cercata maggiormente è quella della responsabile commerciale, in genere, esatto, in Italia o all'estero, perché tutte le piccole imprese hanno un bisogno clamoroso di crescita di fatturato, di ricavi, di apertura di nuovi mercati. Poi lo diremo, perché anche Walter Passerini lo delinea appunto nel suo libro. La cosa importante però è quando io penso anche ad affermazioni dei politici, Renzi per ultimo e quant'altro, il lavoro non è che si crea perché si cambiano le regole di ingaggio degli lavoratori, si crea perché le aziende possono permettersi di assumere. Quando anche di fronte a facilitazioni si vede o a incentivi che le aziende poco assumono, non è perché non capiscono, spesso non sanno, sono poco informate, sono d'accordo con Walter, ma perché una piccola impresa delle 3 milioni e 700 mila, anche se gli dai l'incentivo di 30 mila euro l'anno, non è che può risolvere il problema di assumere una persona che magari costa 70 o 60 mila euro l'anno, perché non tornano i conti. 800 24 00 24 è il numero verde per i nostri ascoltatori. Oggi vogliamo sentirne quanti più possibili. Più possibile, direi di cominciare con Enrico da Mantova, primo ascoltatore di oggi. Enrico, buongiorno. Buongiorno a lei, ai suoi interlocutori e agli ascoltatori. Grazie. Io sono un 47enne oggi, che il lavoro l'ha perso nel 2008, proprio all'esordio di questa crisi, quando avevo 41 anni. Da responsabile di un importante punto vendita di grande distribuzione mi sono ritrovato disoccupato con tutto quello che ne consegue. Per quale motivo, tra l'altro, Enrico? Ristrutturazione aziendale, che cos'è successo? Ma niente, l'azienda aveva in programma, come dire, di vendere tutti i suoi punti vendita, e in un ambito di alleggerimento del pacchetto dipendenti ha cominciato a sfoltire, per usare un brutto termine, e di fatto poi di lì a capo ad un paio d'anni l'azienda ha ceduto tutte quante le sue quote, i negozi e quant'altro, per cui di fatto ha venduto un pacchetto azienda privato di quello che era l'asse portante, cioè certo, i responsabili e quant'altro. Cosa ha fatto in questi 7 anni, Enrico? Dopo aver vagabondato, diciamo così, in cerca di qualche cosa che non era pensabile trovare, anche perché una brevissima parentesi, a 41 anni tu vieni da una condizione familiare e impegni, quindi mutui e quant'altro, come dire, figli piccoli e mutuo grande, che non ti consentono, per carità, io ho accettato di tutto e di più, però non ti consentono di far fronte alle esigenze di quello che era un mese prima, il mese successivo con la metà della retribuzione. La migliore delle ipotesi, certo. Quindi di fatto poi c'è una ricerca spasmodica di qualche cosa che devi rimettere in asse con quelle che erano le tue esigenze. Enrico, noi l'ascolteremo a lungo volentieri, purtroppo dobbiamo sintetizzare, ci racconti un po' come ha risolto oggi e che cosa fa. Ho ricominciato a fare l'agente di commercio, in quanto ho un know-how commerciale. Il problema qual è? Che per trovare un'azienda seria che cerchi agenti seri sulla sua zona non è così facile, non è così scontato. Tu comunque, come ditta individuale, parti con uno startup, ti indebiti per forza di cose, vuoi la macchina, vuoi tante cose, ovvio, e alla fine tu arrivi ad un punto di equilibrio invece che in 3 anni, in 5 anni, ma a quel punto ti ritrovi a dover soddisfare un debito che hai accumulato negli anni precedenti per poter arrivare a quel punto lì. Per cui oggi lavoro in serenità, ma con una zavorra che prima di abbatterla ci vorrà del tempo. Enrico, naturalmente da parte nostra un grande in bocca al lupo, complimenti comunque per la sua perseveranza. Tra l'altro noi anche siamo state le fiere di agenti.it, perché sono anche dei grandi investitori a Radio 24, lo possiamo dichiarare senza alcun problema, e i responsabili ci dicono che ci sono molte aziende che cercano queste figure professionali, poi però bisogna vedere dove si abita, che aziende si hanno attorno e quali necessità ci sono. Walter Passerini, il ramo del commercio. Sì, beh, una è una sorta di refugium peccatorum, insomma, no? È un luogo, è la prima cosa che tendono a fare soprattutto coloro che hanno esperienza commerciale come il nostro ascoltatore. E poi ci sono quelli che si inventano, i middle manager si inventano consulenti. Ah, faccio il consulente, vado a cercarmi l'azienda a cui fare la consulenza. Alcuni sono anche bravissimi, altri sono un po' generici. Quindi sai qual è il problema? Il problema è la solitudine. Cioè queste persone da sole, no? Non tutte riescono a risolvere il loro problema. C'è chi ha le risorse personali, risorse interne, è in grado in 5 minuti di capire dove tira il vento e così via. Però diciamo, la gente non è stata abituata ad avere dei servizi di accompagnamento in Italia, né i ragazzi, né le donne, né gli over, tantomeno gli over 50. Ma soprattutto quando ci sono i servizi, sono dei servizi che orientano verso il lavoro dipendente e mai verso il lavoro intraprendente, che è la vera scelta che va fatta. Il libro ha come chiave di lettura proprio questa: dobbiamo passare da una cultura del lavoro, il futuro del lavoro non è soltanto un lavoro dipendente, ma è indipendente, autonomo e intraprendente. Quali testimonianze hai raccolto di persone, guarda, che sono state capaci di reinventarsi? Te l'ho chiesto perché, guarda, ne ho lette tantissime. Alcune. Intanto anche in chi ha quelli che si dicono i low skills, cioè persone, diciamo, c'è una domanda molto forte di personale, per esempio di pulizia, diciamo di professioni considerate, come dire, erroneamente di basso umili, profilo, di basso umili, valore, sì. Invece no, sono dignitosissime. Anche la colf e la badante sono professioni assolutamente. Ah, tant'è vero che tante badanti ormai sono le sempre italiane, più italiane, si sta invertendo anche. Perfetto, perfetto. C'è anche tra l'altro un rientro nel tema degli infermieri, perché la carenza del settore è sempre molto forte, mancano 50.000 infermieri. Ma anche perché lì guarda, ci racconto una storia. Sì. Allora, ce ne sono tanti invece che sono diventati, io li chiamo gli artigiani digitali, ma non perché digitale vuol dire flippato di tecnologia, nerd e cose di questo genere, ma perché semplicemente hanno usato il web per farsi conoscere come vetrina. C'è un fabbricante di Varese di pippe, un piccolo artigiano, faceva perché nel Varesotto è noto Brebbia, eccetera, sono pippe famose in Europa in particolare, no? Con il web lui vende le pippe negli Stati Uniti e in Canada, per esempio. Un altro, ma quindi con quattro soldi faceva l'artigiano. Un altro, per esempio, una cosa che mi ha colpito tantissimo, guarda, un pastore sardo. Un pastore sardo ha creato la Sardinia Farm, con una piattaforma web, no? Dove lui dà le pecore in adozione. Praticamente sei pastore a distanza o fattore a distanza, tu paghi una quota annuale, 350-400 euro, lui ti garantisce un tot di prodotti, il formaggio, il latte, eventualmente anche la carne, se sei patito di queste cose, adotti in particolare una, per questo adotti una pecora a cui dai tu il nome che vuoi, lui ti garantisce questo, e questo pastore alleva 300 pecore grazie all'adozione a distanza che attraverso il web è riuscito. È un signore che adesso ha 60 anni, ma quando è partito ne aveva 52-53. Certo. Quindi diciamo che le vie nel pieno della crisi, ormai è lunghissima. Le vie dell'entrare nel lavoro, ecco, sono molto legate al lavoro indipendente. Ovvio. Carlo, che ne pensi di quello che abbiamo sentito? Ascolto con attenzione, perché sono molte delle storie che intrecciamo anche noi con Back to Work, dove c'è un concetto di base. Il lavoro oggi è essere imprenditori di se stessi. Questo deve diventare chiaro. Il posto fisso, le garanzie, la modalità. Io quando incontro i manager che vengono da noi, magari da poco, alcuni hanno lunghi anni, ma da tra poco, l'altro poi con che atteggiamento si presentano? Perché allora, a parte non sanno quali sono gli strumenti di accompagnamento in questa fase, ma c'è anche chi ha grande pudore nel raccontare questo momento di difficoltà e grande vergogna. Io racconto sempre che i nostri incontri sono delle sedute psicologiche o psicoanalitiche più delle volte, perché incominci a raccontarti, a parlare con qualcuno che in quel momento ha, vedi, la solitudine, difficoltà, esatto, anche personali, banali, in famiglia, in casa, gli amici, i colleghi. La prima cosa che avviene è il discorso che faceva Walter, la solitudine, il mondo a cui ti relazionavi che si dimentica, ma non per cattiveria o perché c'è cinismo, perché è automatico, si corre i colleghi, le relazioni, i fornitori, non ti telefona più nessuno, la portiera, la custode ti vede uscire alle 10 di mattina e dice: ma dottore, cosa fa? Però c'è un, io che amo vedere il bicchiere, perché nella mia vita è questo che mi è indotto, mezzo pieno. c'è una grande opportunità di trasferire tutta la tua intelligenza, la tua capacità, le iniziative che raccontava Walter, non per fare facile. Cosa, anche perché oggi sarebbe cinico renderle tutto facile, è difficilissimo. Però non è vero che non ci sono ambiti in cui ci si può ricostruire, ridisegnare la propria vita, investendo anche oggi con i moderni mezzi, le tecnologie, relativamente poco. Mm-hmm. Diciamo che la crisi aiuta a rimettere in moto moltissimo la nostra intelligenza e la nostra volontà. E magari può anche succedere che certe passioni, quelle che erano magari i nostri passatempi, i nostri hobby, possano diventare delle occasioni di lavoro. Io ho i mercati fra un attimo, però magari riesco a sentire un ascoltatore prima di sentire cosa succede in borsa. E Paola da Sondrio che attende da un po'. Paola, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi, un piacere sentirvi. Ci racconti. Niente, io dopo una vita, 20 anni da imprenditore, 10 anni da dipendente, il 21 di novembre è terminato il mio contratto, la ditta chiudeva e, sorpresa, il 13 di novembre mi scoprono una neoplasia al rene. Uh-huh. Quindi sono a casa, sono felice di essere al mondo, ma con molta esperienza, troppa esperienza per essere assunta da una qualsiasi ovvio società, perché essere vedono iperqualificati diventa anche un difetto, certo, a un certo punto. Il problema è che hai tantissime competenze, magari scorri la lista, io ci sono, alla fine devi sapere il russo oppure devi essere 25enne. Però un 25enne non può avere ovviamente la mia presunzione, passatemela così, capacità o imprenditorialità, che certo, comunque ho sempre messo al servizio. Paola, in quale settore hai lavorato in tutti questi anni? Allora, prima nel commercio come titolare e poi come contabile amministrativa in SPA. Paola ha ragione, abbiamo raccontato dall'inizio del programma che è proprio questo il ramo in cui c'è un grande bisogno di professionalità. Paola, con un curriculum di tutto rispetto, non riesce a trovare nulla. Le daremo qualche suggerimento pratico tra un attimo. Chiedo pazienza a Walter Passerini e Carlo Bassi, perché adesso andiamo appunto a sentire cosa succede oggi sui mercati finanziari. E poi ci sono Susanna da Lodi, Vincenzo da Roma, ci scrive Fabio sulla posta elettronica appunto, che ci scrive: sono Fabio, segretario della CISL di Firenze, da anni orientiamo i giovani a nuovi lavori, se volete posso contribuire intervenendo. Fabio, noi vorremmo occuparci stamattina di quelli che non sono più tanto giovani. Cuore e denari. Dopo 30 anni di servizio per la mia azienda, questo è quello che ricevo in cambio. E mandano pure un idiota come lei qui per venire a dirmi che da adesso non ho più un lavoro. Non posso permettermi di stare senza lavoro. Ho un mutuo sulla casa, ho dei figli. Come faccio da uomo a tornare a casa da mia moglie e spiegarle che ho perso il lavoro? A livello di stress, ho sentito dire che perdere il lavoro è come una morte in famiglia. Il film Tra le nuvole con George Clooney, che fa il grande tagliatore di teste. Torniamo insieme a Cuore Denari. Perdere il lavoro dopo i 40, 45 anni, 50 è un cambiamento di non scarso impatto, impone delle scelte strategiche nel mercato del lavoro, ma anche una certa tenuta emotiva, e ce ne siamo resi conto ascoltando anche le testimonianze dei nostri ascoltatori all'800240024. Con noi oggi per parlarci anche di questi aspetti, dandoci qualche strumento di supporto in queste fasi, c'è il dottor Michele Cucchi, psichiatra, direttore sanitario del Centro Medico Sant'Agostino di Milano, al quale do il nostro buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno. Ben ritrovato. Buongiorno. Poi risponderemo anche con Walter Passerini e Carlo Bassi all'ascoltatrice Paola da Sondrio, con un super curriculum ma che oggi non riesce ad utilizzare in alcun modo. Ma dottor Cucchi, ricomincio con lei. Programmare il cambiamento invece che subirlo è una frase che ho raccolto anche dal libro di Walter Passerini. Facile a dirsi, ma un conto è programmare di cambiare casa. Questa eventualità, quella della perdita del lavoro ad una certa età, forse non la mettiamo in conto prima che si presenti. Beh, certo, credo che questo genere di cose non si programmi, purtroppo accadono senza preavviso. Certo, in un certo senso si può programmare, per così dire, di lavorare costantemente su di sé, per cercare incompetenze, di essere sempre avanti e aperti a nuovi scenari. E quindi in un certo senso, a prescindere dalla crisi, dal periodo storico, dall'età anagrafica, potremmo dire che chi si ferma è perduto. Non è scontato però non abituarsi a quelle che sono le abitudini dell'inerzia, però bisogna avere la capacità di essere sempre un passo avanti, almeno mentalmente. Allora, le chiedo anche qual è l'impatto psicologico, anche se chiaramente non si può generalizzare, di queste situazioni. Le leggo una mail che ci è arrivata poco fa, ci ha scritto Lucia: il mio compagno il giorno 1° maggio di quest'anno, festa dei lavoratori, festeggerà il suo primo giorno da disoccupato. 53 anni, 3 figli che ha dovuto crescere da solo perché la moglie è morta qualche anno fa. Si sente perso, non sa da dove ricominciare. E appunto, dottor Cucchi, sull'impatto di chi si trova in queste condizioni, c'è chi si mostra forte e invece dentro sta malissimo. Beh, effettivamente sono delle condizioni drammatiche, perché non avere un lavoro o far fatica a trovarne uno è una condizione di tensione e frustrazione, però perderne uno quando lo si aveva già, soprattutto se non si è più neolaureati, quindi non si è più giovanissimi, è un'esperienza davvero difficile. Perché un conto, possiamo dire, è nascere nella precarietà, un conto invece è precipitarvici, quindi vivendo il cambiamento magari provenendo da una storia completamente diversa, per cui è più difficile rimettersi in gioco piuttosto che mettersi in gioco. E purtroppo l'esperienza di queste persone è quella dello sconforto e della sensazione di inutilità. Rispetto al più giovane che cerca lavoro e magari non lo trova, lo perde, che vive più una dimensione di ansia, a livello emotivo gli ultracinquantenni vivono rabbia e tristezza in queste situazioni. E la rabbia va usata come serbatoio di energia, invece la tristezza bisognerebbe cercare di allontanarla velocemente. Insomma, anche se non è sempre così semplice, Carlo Bassi, voi lo riscontrate a Back to Work 24 in chi viene da voi? Ci sono persone che magari non si aspettavano di ritrovarsi improvvisamente così a disposizione del mercato del lavoro, oppure arrivano da voi persone per lo più preparate a queste eventualità, che quindi arrivano con tutte le carte in regola per rimettersi, come dire, in circolazione? Il sentimento più diffuso è sicuramente la delusione. Delusione sempre nei confronti, vorrei dire, del mondo, ma in realtà della propria azienda, della propria... Devo dire che quando arrivano a Back to Work, proprio perché Back to Work è un sistema che diffonde il fatto che bisogna poi reagire e diventare piccoli imprenditori di se stessi, arrivano già avendo compiuto quantomeno un primo passo a trovare una soluzione per reagire. Noi poi siamo una delle possibilità, non siamo, esatto, né l'unica, esatto, né la migliore, e forse non siamo sufficienti nemmeno con quello che proponiamo, però indubbiamente quando si avvicinano, anche proprio nel percorso che bisogna fare per avvicinarsi a questa soluzione, stanno elaborando già il lutto, perché è vero che è un lutto. Quali suggerimenti darebbe a Paola D'Assondrio, che ci ha chiamato prima, a parte la sua vicenda di lavoro, a cui poi si è accavallata anche quella di salute, perché qua quando piove, piove sempre sul bagnato? Un curriculum di tutto rispetto, lei sostiene, e però quando insomma anche trova la domanda di lavoro che farebbe al caso suo, l'offerta di lavoro che fa al caso suo, dice: c'è sempre in ogni caso una condizione che io non riesco a rispettare, fosse anche il russo o fosse un'altra cosa, l'età. Beh, io un suggerimento che comunque do è di incominciare a vedere su un target di tipologia di impresa e di attività che è un po' distante da quella a cui eravamo abituati, siamo abituati quando facciamo i manager, la media grande azienda, trasferirsi verso la piccola. Ce ne sono di molto dinamiche, non dico tutte, ce ne sono di imprenditori che hanno bisogno magari in ma momento... a Sondrio multinazionali non ce ne sono, ma bisogna smettere anche di pensare che il posto ce lo garantirà la multinazionale, per il fatto che dobbiamo ricominciare verso quelle imprese che oggi hanno obbligatorietà alla crescita e che hanno bisogno di queste competenze, trovando soluzioni che possono essere anche parzialmente quelle dell'investimento, o anche solo quello di fare un accordo con l'imprenditore per cui si può lavorare, si deve lavorare anche a success fee su certi progetti, certo, specifici. C'è più spazio nella piccola impresa che non nella media o nella grande in questo momento. Esplori questo mondo nel libro, Walter Passerini, ricordiamolo, La guerra del lavoro, che tra l'altro non è scritto da solo ma con un collega, Ignazio Marino, che non è il sindaco di Roma evidentemente, ma un collega d'Italia Oggi. Esatto, grazie. Sì, sì, certo, è proprio l'altra chiave di questo nostro lavoro, perché vedi, noi abbiamo bisogno per le persone delle strategie che riguardano alcune le persone e altre il sistema. Per persone come la nostra ascoltatrice, per esempio, uno sportello di ascolto, ma anche di come dire, condivisione di un business plan personale, cioè costruiamo il tuo progetto professionale insieme, sarebbe già risolutivo. Lo può fare la provincia di Sondrio finché esistono le province, lo possono fare i centri per l'impiego di Sondrio, le agenzie del lavoro di Sondrio, no? Allora, se tu hai un punto di riferimento, intanto ti ascoltano, trovi qualcuno che finalmente ti ascolta. Secondo, che ti aiuta a costruire te stesso, magari a capire le miniere che hai dentro di te, i talenti che hai dentro di te e che hai un po' tenuti nascosti. E questa è la prima cosa per le persone. La seconda, sempre per le persone, è che come dire, bisogna davvero pensarsi anche in chiave, diciamo pure, web e autonoma, e questo ci ritorniamo. E per quanto riguarda invece il sistema, noi dobbiamo per esempio rivisitare il prestito d'onore per gli over 50, perché c'era stato per un certo periodo, poi non è più stato finanziato. C'è stato per gli universitari, diciamo, per i giovani, le banche. No, ma qui proprio, allora, è una forma di prestito ad onore, appunto, come dice la stessa parola. Ti danno, non so, 10-20 mila euro ti davano allora, e tu con questi potevi, io ho visto operai che sono diventati degli impiantisti, hanno preso il patentino, sono idraulici, elettrici e così via, hanno potuto, diciamo così, sulle nuove norme anche europee, mettersi in proprio con un patentino grazie a questo prestito d'onore, che era il prestito che si dava anche ai giovani, no, per aprire, certo, un'impresa, la legge 44, eccetera eccetera. L'altra cosa però fondamentale è che quando uno perde il lavoro perde anche lo stipendio, cioè dopo 12 mesi, tra poco, si perderà anche l'indennità. Allora il problema è che noi possiamo accorciare il cosiddetto ASPI, no? Cioè sì, gli ammortizzatori sociali, e che arriveranno quelli nuovi, no? E che sostituiranno tutti gli altri, ma se noi abbiamo una persona che entro 12-18 mesi, 18 perché l'over 55 avrà probabilmente 18 e non 12 mesi di indennità, però se durante questi 18, 12 o 18 mesi non c'è qualcuno che aiuta questa persona a riconvertirsi, a trovare un lavoro, dopo, finita l'ASPI, finito, non c'è il progetto, queste persone cadono in povertà. Noi abbiamo troppi poveri in questo momento, noi abbiamo 5 milioni di poveri, povertà assoluta, ed è veramente il welfare che deve farsi carico di queste cose. Ci aggiungerei anche un altro aspetto, se volete poi magari lo commentiamo nella seconda parte del programma. Non è che sia sempre poi così promettente andare a far parte del popolo delle partite IVA, perché tu sai che anche queste persone sono in difficoltà, i lavoratori autonomi non hanno ammortizzatori sociali, se c'è un programma del sistema bancario per sospendere i mutui per le famiglie in difficoltà loro non possono accedere, ci sono tutta una serie di problemi che impediscono e ostacolano la visione anche di noi come liberi professionisti in questo senso, per cui poi magari ci torniamo. Vorrei ritornare al dottor Cucchi, ma anche alle testimonianze dei nostri ascoltatori. Susanna da Lodi, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono rimasta senza lavoro a 50 anni, ero un dirigente d'azienda, mi occupavo dell'amministrazione di una piccolissima azienda. Quando è stato il momento che abbiamo capito che la situazione stava cominciando a complicarsi, questa azienda produceva abiti e li vendeva. Ci siamo dati da fare per cercare di salvare la situazione e mi sono messa anche alla vendita, eccetera. Da questa esperienza l'azienda poi ha chiuso, io di ammortizzatori sociali li ho goduti per 3 mesi, punto, come poi la maggior parte purtroppo delle persone che lavorano nelle piccole aziende. E questo è un piccolo inciso per tornare al discorso che faceva prima il signore che diceva della povertà assoluta a cui poi andiamo incontro. Ho cominciato, devo dire, a mandare curriculum a pioggia, onestamente nessuno mi si è affilato. Scusatemi il termine. Non è mica una parolaccia, Susanna, è un quadro molto molto esplicito, insomma, della sua situazione. Quindi oggi che cosa fa Susanna? Oggi ho avuto la fortuna di essere presa da una società che fa rilevamenti statistici, quindi faccio il rilevatore per conto di questa azienda, per Istat, e nel frattempo faccio promozioni, perché nella vendita, come dicevate prima, c'è spazio. Io faccio praticamente in contemporanea 4 lavori. Devo dire, mi alzo la mattina e mi chiedo chi sono, perché effettivamente è anche abbastanza frustrante, immagino. Frustrante, esatto. Però devo dire, ho trovato, mettiamo così, una mia dimensione nella quale a questo punto riesco a portare la pagnotta a casa o a barcamenarmi. Certo. Susanna, se vuole ci scriva in privato, magari descrivendoci un po' meglio il suo profilo di esperienza, appunto, passato, vediamo se possiamo far circolare noi, adesso non siamo qua in ufficio del lavoro eccetera, però questa esperienza mi interessa molto, perché Susanna non solo si è rimessa in carreggiata ma con grande dignità, umiltà, 4 lavori in contemporanea. Devo sentire i suggerimenti per chi è in viaggio, poi su questo caso vorrei sentire il parere del dottor Cucchi su come Susanna si è rimessa in pista, anche se dice la mattina io mi alzo e non so, guarda lo specchio, non so neanche chi sono. A tra poco. cuore e denari. Lei dice che lei è molto determinato e dice che è intelligente. Mi piace pensarlo. E vuole imparare questo mestiere? Sì, voglio imparare questo mestiere. Ha già iniziato a studiare per conto suo? Certamente, sì. Posso dire una cosa? Sono il tipo di persona che se mi fate una domanda e non so qual è la risposta, vi dico chiaro e tondo che non la so. Ma potete scommettere che so come trovarla una risposta e che la troverò la risposta. Questo era La ricerca della felicità. In realtà anche nelle trasmissioni passate molti esperti che sono passati di qua ci hanno detto che non è il caso di dire in un colloquio di lavoro so fare tutto, sono disposto a fare tutto. Qualche volta bisogna anche un po' circoscrivere il campo, no? Pronti a tutto non è una strategia. Walter Passerini, no. Carlo Bassi è lo stesso, dello stesso pensiero. Professor Cucchi, volevo ritornare a lei, dottor Cucchi, nostro psichiatra, che questa mattina ci aiuta anche con un piccolo supporto per i nostri ascoltatori che sono alla ricerca del lavoro perché lo hanno perso tra i 40 e i 50 anni. Cosa ne pensa del caso di Susanna che abbiamo appena sentito? Perso il lavoro a 50 anni, si è rimboccata le maniche, ne fa 4 adesso, la rilevatrice statistica, promotrice commerciale, lavori che magari a 50 anni uno non immaginerebbe di fare, pur essendo alla ricerca un po' di tutto per sbarcare il lunario. Però lei dice: io la mattina mi alzo e chi è quella che sto guardando allo specchio? Non la riconosco più. E effettivamente è un caso abbastanza emblematico di come il vissuto di queste persone sia quello di perdere un po' l'identità, no? Perché si vive anche la sensazione del fallimento, come dicevo prima. Però è fondamentale dire che non c'è il modo giusto, univoco, di affrontare queste situazioni. Cioè ciascuno dovrebbe provare a fare leva sui propri elementi di forza. Per esempio la modalità con cui questa persona reagisce ci dice tanto del suo modo di essere, veramente molto coerente con se stessa. Sono delle persone che sono intraprendenti, che sono poi quelli che hanno l'etica del sacrificio e della sofferenza, quelli che sono poi dei lavoratori instancabili. Ecco, questi vivono in silenzio e con grande dignità questi momenti e poi alla fine riescono sempre a trovare il modo di riuscire a stare in equilibrio. Poi ci sono gli entusiasti, quelli che magari lavorano per passione, quindi nel lavoro si realizzano, trovano proprio un modo di esprimere anche il loro modo di essere. Questi quando perdono il lavoro o quando le cose non vanno bene, se l'attività è loro, vivono un momento di grande angoscia e un senso di inutilità. Però possiamo stare tranquilli che questo è un modo di sognare e di riciclarsi in qualcosa, lo trovano. Mm-hmm. Per loro è importante dare assolutamente gambe al loro entusiasmo, mm-hmm, in qualsiasi forma. Stavo tra l'altro pensando all'età dei 50 anni. A 50 anni mia mamma aveva me che ne avevo una trentina. Oggi invece siamo giovanissimi e addirittura a caccia di nuovissime opportunità professionali per riciclarci. Carlo Bassi, mi stavo chiedendo se ex manager, non so adesso esattamente quali profili, arrivino a Back to Work 24, ma chi si non ricicla, non mi piace questo termine, reimpiega in settori in cui non avrebbe mai immaginato, proprio su vostra intermediazione, diciamo così. Sì. Ma come dicevo prima, a noi arrivano veramente figure provenienti da qualsiasi settore, da qualsiasi cosa, e ruoli che vanno dai quadri ai dirigenti. L'altro dato curioso è che un 10% di quelli che oggi abbiamo, che sono diverse migliaia, sono top manager, cioè inquadrabili in figure che prima erano i top manager, ma perché dalle grandi aziende multinazionali sono comunque usciti e questi non si rifiutano. In che modo? Tipo Lehman Brothers con gli scatoloni in mano? Oppure molti raccontano storie simili. L'idea di ricominciare o di sfruttare competenze che magari non erano specifiche della propria attività professionale, ma che erano state acquisite per passione, interesse di altre cose e così via, è comunque uno stimolo anche psicologico e di capacità di esprimere nuove volontà, che può derivare dal fatto che gli metti davanti un progetto che in questo senso può rappresentare qualcosa di concreto. Mm-hmm. Secondo me quello che manca, in questo mi ricollego a quanto diceva Passerini, qualcuno che ti faccia capire che ci sono le strade e come percorrere. Non basta dire genericamente ci sono le strade, certo, ma come iniziare a percorrere. Mi dai 3 indicazioni pratiche che poi magari metteremo su Facebook in maniera un po' più dettagliata su che cosa possono fare queste persone che improvvisamente si trovano in questa condizione? Davvero in una fase iniziale succederà a tutti, brancolano nel buio, ma è un momento di lucidità, vogliono riprendere in mano la loro vita. Qual è la serie di primi 3 passi da fare? Ma io vado anche per un'esperienza personale, perché non mi vergogno di dirlo, cioè, ho anch'io nella mia vita da manager essere, in passato sono stato per un anno quasi fermo dal lavoro, era un po' prima della crisi, quindi mi sono potuto rimettere in sesto, ma la prima cosa è veramente cercare di soffocare tutti quei meccanismi di rabbia e di delusione che ti prendono. Lo so che è facile dirlo, ma bisogna uno è incominciare ad analizzare il mondo delle proprie relazioni, dico la cosa più banale, ma perché dalle proprie relazioni, soprattutto chi ha fatto un'attività dirigenziale, contatti che non sono quelli che ti trovo nel lavoro, ma che ti possono a loro volta mettere in contatto con altro, certo, con situazioni così. Questa è la prima cosa. La seconda, in questo momento storico specifico, siccome bisogna smettere di pensare che ci si ricollocherà in un posto fisso, questo bisogna dimenticarselo e avere il coraggio di dirselo una volta per tutte, capire dove si può intraprendere, o da soli, e oggi ci sono opportunità diverse, con anche investimenti relativi, o attraverso soluzioni che qualcuno ti può mettere a disposizione, come siamo noi di Back to Work. Terza cosa, mi verrebbe da dire, pensare di andare, e qui immaginare anche mestieri dove si ritorna anche ad alcune cose del passato, si possono costruire pipe e venderle in modo moderno, quindi fare una cosa estremamente antica e trovare meccanismi nuovi, il digitale in questo aiuta, per cui ti apri le vetrine in tutto il mondo. Stavo pensando anche magari aiutare qualcuno che non è capace di utilizzare gli strumenti tecnologici per fare una rete commerciale, e magari no, Walter? Che la maggior parte delle nostre richieste. Allora, gli specialisti, no, di queste cose sono appunto i digital tecnici digitali, insomma, no, che riescono a metterti in sesto un tuo negozio virtuale, e questo riguarda appunto moltissime specialità di giovani e così via. Per esempio, quell'esempio che facevo prima della Sardegna ha creato poi fenomeni emulativi su fasce di età trentenni. I ragazzi in Sardegna hanno aperto ulteriori adozioni di pecore e di capre a distanza, ma guarda, c'è anche una piattaforma, è una cosa meravigliosa, Sardegna Farm, andate a vedere la storia di Emilio, Emilio Concas, che è una persona strepitosa, a parte che ha la faccia da saggio greco, con la barba bianca, i capelli bianchi. Adesso Marco Lombardo cerca la storia, la mettiamo su Facebook per tutti i curiosi. Emilio Concas, cercate, lui e la moglie, tra l'altro. Vabbè, a parte questo però, ecco, quindi, come diceva anche Bassi, il problema è prepararsi a cambiare, cioè voglio dire, è chiaro che se tu vieni colpito, trafitto al cuore dal licenziamento, perché è più al cuore che alla testa il licenziamento, ti colpisce lì e tu diventi depresso immediatamente. Quindi cominciare a preparare, anche se non la nostra seggiola non scricchiola, preparare tutte le conoscenze che abbiamo, il network personale, poi informazioni sul settore di cui abbiamo esperienza oppure in cui vorremmo entrare, tenersi sempre aggiornati sull'andamento di quel tipo di settore. E terza cosa, sicuramente avere questa bussola personale, che è fatta di quattro punti cardinali, come tutte le bussole. I miei sogni, i miei desideri, i miei interessi, quali sono? Primo punto cardinale. Secondo, le mie attitudini. C'ho la stoffa per fare quella cosa? Cioè, voglio dire, se io voglio fare, come dire, il poeta, è difficile che possa costruire ponti. Posso costruire ponti ideali, valoriali, ma non certo ponti fisici. Quindi le attitudini che ho, secondo punto cardinale. Terzo punto cardinale, magari è il momento di imparare meglio non solo l'inglese ma anche il francese o il tedesco, mettere una lingua in più, perché ormai l'inglese lo sanno quasi tutti, ovviamente anche saper parlare molto bene l'italiano, e quindi diciamo avere uno zoccolo di formazione scontato, appunto, ma non è appunto. Ecco, nelle famose tre I mancava la quarta, che è l'italiano, italiano, e avere la possibilità, cioè, di fare anche un corso, ce ne sono molti di gratuiti e non sono tutti a pagamento, un corso di formazione da tre mesi, sette mesi, eccetera. Terzo, quindi intanto andiamo a conoscere bene l'istituto dell'outplacement, che magari poi ricordiamo. Sì, com'è? Ma molti corsi, ma anche le agenzie del lavoro fanno corsi gratuiti di tutti i tipi. Quarto punto cardinale, il mercato del lavoro, cioè, però su questo dico, quello che manca in Italia è la professione dell'orientatore. Noi pensiamo, quando parliamo di orientamento, che riguardi soltanto i ragazzi, ci sbagliamo, l'orientamento riguarda tutto l'arco della vita, e questo è il punto, e si può anche tornare a scuola durante esperienze di questo tipo, magari in otto mesi di fermo uno impara qualcosa. Guarda, da fare. Ti posso dire che ci sono ascoltatori che ce lo stanno raccontando, c'è chi ha approfittato per andare avanti con magari l'università che aveva interrotto in gioventù, e adesso li ascolteremo. Volevo solo un ultimo commento, voglio fare il domandone agli ascoltatori, e a chi indovina, a chi ce lo spiega in termini semplici, poi noi magari ci andiamo in maniera più approfondita, regaliamo un paio di libri di Walter Passerini. Sai che faccio? Posso? Ma sì! Certo, il domandone di oggi è, vorrei che gli ascoltatori mi spiegassero, se lo sanno, se ne hanno sentito parlare, se ne hanno letto qualcosa, che cos'è la staffetta generazionale. generazionale. 8-0, so che è difficile, però è, in realtà per noi è un istituto molto bello, non ha avuto un grandissimo successo, un po' come l'apprendistato e come tanto altro, però poi che non si dica che qualcuno non ne aveva parlato, noi lo raccontiamo, poi se le aziende o le regioni anche non fanno il loro dovere, non è colpa nostra. Raccontatecelo all'800 24 00 24 oppure scriveteci al 349 238 6666 su Facebook, su Twitter, avete tutti i canali a vostra disposizione. L'ultima domanda al dottor Cucchi. Dottore, dicevamo nella nostra chiacchierata, perdere il lavoro può essere l'occasione di far diventare una passione coltivata per anni, un'opportunità professionale, un po' come ha fatto il nostro signore delle pecore. Che suggerimenti ci dà in questo senso? Come trovare la lucidità di vedere un momento negativo in modo positivo? Tiriamo fuori il nostro hobby e facciamone il nostro lavoro. In 40 secondi, purtroppo. Beh, è vero, nel senso che sarebbe bello poter sognare e trasformare i sogni in passione, però è un po' un'indole personale questa cosa. Io, se posso dare dei consigli, magari non programmare il cambiamento, ma cavalcarlo, cioè avere la mente aperta, questo sicuramente. Non perdere tempo, quindi non fermarsi, chi si ferma è perduto, per cui non perdere il ritmo anche quando non c'è più, diciamo, il lavoro e il cartellino da timbrare, certo, che ce lo impone. E fare un bilancio delle proprie competenze, pensando in modo innovativo a quello che può essere uno scenario lavorativo in cui declinarle. Grazie. Cuore e denari. Sono pronto a fare di tutto per arrivare in alto. Non ho dubbi su questo, Flanagan, ma tutti i nostri dipendenti sono laureati. Ma io sono uno che apprende in fretta. Flanagan, a noi occorrono solide credenziali. No, nel marketing è indispensabile avere una laurea. Io ho lavorato nel settore comunicazioni, penso di esservi utile. Beh, a noi non occorre un apprendista quanto uno che produce. Spiacente, magari, ma non facciamo nuove assunzioni. 6-8 mesi. Non abbiamo bisogno. Si rivolga ad altri settori. Ti metti in lista del tutto. Bisogna essere ottimisti, ne sono convinto. Mai arrendersi, mai dire rinuncio. Voglio far parte del suo staff. Allora? Che mi dice? Sto cercando lavoro. Ah, ecco, appena licenziato. Sto cercando, cerco qualcosa di meglio. Lo sai preparare un redai, signor, come ti chiami? Brian Flanagan, no. Sfortunatamente non ne ho avuto il piacere finora. E che mi dici del vodka martini con una spruzzatina di Pernod? Che apprendo in fretta. Allora, Tom Cruise, nel periodo in cui ha fatto Cocktail, questo film che ha fatto sognare tutte noi quando eravamo ragazzine, era in un'età, noi era proprio cinquantenne, però insomma ci può dare anche questa esperienza l'idea di come ad un certo punto, pur avendo chissà quale tipo di vocazione, bisogna adattarsi un po' a fare dell'altro, soprattutto quando i periodi sono un po' come questo, con questo tunnel che chissà quando vedremo la luce. Carlo Bassi, Back to Work 24, secondo, mi viene, dovrei darti del lei, ma mi viene darti, no, del tu, diamoci del tu, finiamola finta, un po' così, no, esatto. No, ma secondo te, insomma, qual è anche un po' la sensazione che avete? Posso chiederti anche di tracciarci un attimo? La sensazione che avete in che senso? Sulla crisi economica, su io quando insisto, ripartiremo, vorrei... che segnali danno le aziende che intermediate? Sì, allora, negli ultimi mesi un filino di vivacità in più e di apertura delle possibilità si sta notando. Questo però mi dà la possibilità di ritornare, Deborah. Non parliamo che ci debba essere lo Stato che ci garantisca il posto di lavoro, non è un terzo e quant'altri. Ci sono i piccoli imprenditori che devono incominciare, quando Renzi brutalmente nelle sue modalità dice bisogna ricominciare a mettere i soldi nelle imprese, bisogna ricominciare a far sì che le imprese crescano, non è facendo il Job Act che si fa assumere più persone, le imprese devono assumere se cominciano a fatturare di più, certo, se vanno in nuovi mercati, se escono dal loro recinto piccolino. Quindi non solo se lavorano bene nel mercato domestico, no, comunque c'è cioè io racconto sempre, perché se no raccontiamo, scusami se ti interrompo, no, raccontiamo un film che non esiste, cioè non ritornerà una ripresa dell'occupazione, deve ritornare una ripresa della produzione e quindi della crescita delle imprese che creano occupazione, consumo e così. Può sembrare una banalità. No, diciamo che l'imprenditore può mettere il soldo in azienda se deve tamponare magari un'emergenza temporanea, piuttosto che prendere lui lo stipendio, può momentaneamente pagare gli stipendi ai dipendenti. Walter Passerini invece ci tiene a raccontarci di una tabella che è nel suo libro. Per quale motivo, Walter? Perché è il ricambio generazionale. Eccolo là. Cioè, in sostanza, noi abbiamo oggi piccole imprese dove c'è un problema di successione imprenditoriale. c'è la successione manageriale, ma c'è anche la successione imprenditoriale. Seconda e terza generazione, arrivate al capolinea, non hanno figli adatti a continuare l'azienda. Quella è un'area di piccola impresa fondamentale. E lì entrano i private equity, tra l'altro, con manager esterni. Ecco. Servizi di accompagnamento. L'altro fenomeno invece è quello che riguarda gli artigiani. Guarda, c'è questa lista di 385.000 posti artigiani che stanno scomparendo per ragioni di età anagrafica dei titolari, che cominciano ad avere più di 63, 64, 65 anni. C'è la lista, guarda, si va da allevatori, tanto per tornare al pastore sardo, esatto, che diventa il al simbolo, grande web pastore che vi invitiamo ad andare a visitare. Ah, anche nell'agricoltura, per esempio, conciatori, sardi, conduttori di gru, venditori ambulanti, tra l'altro, riparatori di strumenti di precisione, falegnami, addetti macchine, filatura, tessitura, braccianti, muratori, carpentieri, di nuovo falegnami, conduttori, carrozzieri, meccanici auto, saldatori, ci vuole il patentino, quindi voglio dire, ci sono 385.000 posti artigiani, dove tra l'altro il web non viene nemmeno citato. Se poi tu aggiungi a questo fenomeno le potenzialità che ha oggi il web, anche per chi fa il falegname, che può vendersi tra virgolette su mercati più ampi, anche solo italiani per esempio, oppure stranieri, beh, capisci, ci sono davvero delle opportunità. Il problema è qualcuno che te lo dica, ma anche tu, insomma, cominciate a pensarci. Quindi, insomma, oggi possiamo lanciare questa battaglia dal microfono di Cuore e Denari, questa provocazione, chiamiamola come volete: occorre formare più orientatori per chi perde il lavoro in un'età adulta. Sì. Sono una figura professionale che manca. Ci vuole una laurea. Almeno di tipo triennale, più un anno di master, 3+1, per orientatori professionali che devono sapere di psicologia, che devono sapere di formazione e che devono sapere di mercato del lavoro. Mercato del lavoro diviso in due: lavoro dipendente e lavoro intraprendente. Queste figure, ne abbiamo bisogno di 20.000 di queste figure, ma non c'è nemmeno il corso di laurea in Italia, in Francia c'è. Perfetto, 800 24 00 24. Adesso spazio ai nostri ascoltatori. Abbiamo lanciato il domandone, prima abbiamo chiesto agli amici che ci seguono da casa se conoscono l'istituto della staffetta generazionale. A chi rispondeva, abbiamo promesso di regalare il libro di Walter Passerini, e naturalmente si aggiudica questo quizzone chi si chiama Walter, giustamente. Walter da Cuneo, buongiorno. Non siamo parenti. Salve, buongiorno, mi chiamo io Walter, siamo fra. Eccoci. Ci dica, Walter. Complimenti per la trasmissione, siete eccezionali tutte e due. Complimenti comunque anche alla radio, perché è molto bella. Grazie, Walter. La staffetta generazionale sarebbe il cambio generazionale, quindi dà la possibilità a dipendenti di con una certa età anziana, quindi non so, superiore ai 55 anni, quello che sia, di potersene andare in prepensione e al loro posto avere l'assunzione di un giovane. Speriamo che si possa Grazie. Fare. Grazie mille, Walter, credo che ce l'abbia raccontata benino. Infatti si merita anche l'applauso. Tra l'altro c'è anche un percorso di accompagnamento del lavoratore anziano nei confronti del giovane, c'è un periodo in cui tutoraggio, ecco. Si chiama tutoraggio, ecco, in realtà sono poche decine i contratti di staffetta fatti in Italia, e c'è davvero anche un passaggio del testimone sul mestiere, anche di tipo tecnico e anche sul come si sta in un'azienda, quindi è una bella iniziativa. Certo, non è risolutiva dei nostri problemi, però la staffetta vuol dire un patto generazionale, non la guerra del lavoro, è anche quella che c'è tra gli anziani e i giovani contro gli anziani contro i giovani, gli uomini contro le donne, gli italiani contro gli stranieri. Ecco, queste guerre, basta, ragazzi. Certo. Anziani over 50 e giovani, staffetta, ma soprattutto patto generazionale. Voglio sapere, per fare questa domanda a Carlo Bassi, approfitto della domanda di Vincenzo da Roma, quante donne vengono a Back to Work 24. Vincenzo da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Grazie a lei, Vincenzo. Senta, no, io volevo portare la testimonianza di mia moglie. Sì. Lei in pratica ha lavorato, guardi, 15 anni nel settore del commercio, precisamente nella gioielleria. Poi ha dovuto lasciare il lavoro a causa della seconda gravidanza e niente, non è più rientrata. Ha cercato di reinserirsi aprendo un'agenzia di viaggi in franchising senza spendere tantissimi soldi, eppure quella è andata, diciamo, lo so, non capirei molto... Oggi con internet, in cui si può organizzare completamente un viaggio, le agenzie non si trovano in una condizione molto felice. Quindi, Vincenzo, l'ultimo step? No, volevo dire, ha cercato di reinserirsi, ha voluto investire su se stessa, sì. E quindi avendo una grande manualità ha fatto un corso di 6 mesi di pasticceria. Grandissimo. Beh, le voglio dire, adesso per voler prendere un po' di esperienza, una cosa, non riesce a fare un po' di senior stage neanche gratis. Grazie Vincenzo, probabilmente magari evidentemente per anche il tipo di condizione che ha, famiglia, ha dei bambini piccoli. Ma vada all'associazione degli artigiani della sua provincia e vedrà che troverà la possibilità di fare quindi questo stage. Quindi Confartigianato, sì, associazione CNA, eccetera. Certo. Carlo Bassi, le donne che vengono a Back to Work 24? Sono molto poche, meno del 5%. Mi sono dato, ho provato a capire, la donna che perde il lavoro nell'ambito da familiare, senza fare così, forse non ha la immediata, imminente necessità di costruirsi. Sai Bassi, non ti voglio interrompere, no, ma quello fai, che stai dicendo è molto importante. Abbiamo pericolosamente un ritorno delle donne in famiglia, Certo. Che dal lavoro escono, sono licenziate e stanno in famiglia, non cercano nemmeno più, non sanno dove sbattere la testa. Quindi è molto basso. Contemporaneamente c'è un dato, i curriculum sono decisamente più in aumento, sono migliori come qualità del curriculum. Questo è un dato che io ho riscontrato, nel senso che sono figure più complete nella loro esperienza, però sono molto poche, sono meno del 5%. Parlando di 2.000-3.000 manager oramai. Certo. Voglio fare una domanda molto brutale, ma così almeno gli ascoltatori, perché sennò credono sempre che invitiamo gli amici, che non facciamo mai delle domande non cattive, però per capire come funziona anche la modalità di ricollocamento che passa da Back to Work 24. Voi ascoltate questi manager che magari hanno anche una piccola disponibilità finanziaria da reinvestire in una piccola media impresa nel nostro paese. Qual è la disponibilità finanziaria di cui si deve Noi abbiamo chiuso operazioni in cui hanno investito anche meno di 50.000 euro, 30-40.000 euro, fino a operazioni dove hanno investito 200-300-400.000 euro. Il target non lo stabiliamo noi cerchiamo di identificare la disponibilità da una parte e le aziende con interesse. La nostra piattaforma oggi ci consente di avere una proposta di aziende che cercano esperienze professionali e denaro, perché non si possono permettere di assumere direttamente, ma molte operazioni sono state chiuse anche con qualche decina di migliaia di euro, quindi non sto parlando di situazioni inaccessibili. Allora, noi oggi è giovedì, abbiamo anche la nostra parentesi dedicata alla nostra iniziativa Cuore, Denari e Vitali. Prima però di andare a sentire gli incipit di questa settimana, che poi dovrete completare, di andarvi a raccontare anche chi si è aggiudicata invece la scorsa trasmissione, vorrei sentire ancora un altro ascoltatore, perché ci sono, a proposito di donne, sono in tante oggi ad averci chiamato. Sentirei Silvia da Ferrara, rapidissima, la ringrazio, così sentiamo anche qualche altra sua collega. Silvia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Premetto, sono un'impiegata normalissima, non sono né un quadro né a livello dirigenziale. CIGS da settembre del 2013, ho una discreta preparazione back office commerciale, lingue straniere conosciute 3, pertanto faccio domande alle agenzie interinali, invio curricula. Cosa succede? Che vengo, mi viene risposto, a parte che non viene proprio risposto. E anche quello è un'altra, una brutta, brutta prassi che hanno, comunque Silvia. È demotivante, ecco. Io mi chiedevo, alla fine di tutto, le persone che vengono assunte sono apprendista. Ora col Job Sect mi pare arrivino fino a 30 anni, correggetemi se sbaglio. 29 ecco. E 364, cioè un giorno meno dei 30, insomma. Io sono abbondantemente fuori, ecco, fino ai 50 anni, questa fascia di età, dove vogliamo metterla? Silvia, posso chiederle un attimo anche se ha provato a inviare curriculum fuori dalla provincia di Ferrara? Lei è disposta a spostarsi, quindi non risponde con 3 lingue, che mi sembra veramente assurdo. Oggi che parlo l'inglese come veramente in maniera imbarazzante, una professione, già solo le lingue sarebbero secondo me sufficienti a trovare qualcosa di interessante a Silvia. Lei con le lingue che le ascolta sono inglese, francese e? Tedesco e anche un po' di spagnolo, con il quale Silvia, aspetti che abbiamo un colloquio in diretta. Posso chiederle a quale tipologia di aziende, anche come dimensione ha inviato i suoi... ma non solo il settore, ma anche le dimensioni. Cioè, quando lei si pone alla ricerca di un imposto di lavoro, a che tipologia di azienda si riferisce? Aziende medie, medio-grandi? Allora, teniamo presente che il tessuto economico di Ferrara, dal punto di vista industriale, è inesistente, per cui io mi rivolgo nel bolognese, medie, piccole anche. Cioè, il range è quello, dalla piccola... Io non è che ho... Non posso discriminare, Sono nella condizione di discriminare, però già ai 40 chilometri, io peraltro vivo al confine con la provincia di Bologna, mi viene detto, ma il datore di lavoro cerca nelle vicinanze. E certo, allora ci la Camera di Commercio tedesca, Camera di Commercio tedesca, se non c'è a Bologna provi a Verona. Silvia, okay. Camera di Commercio italo-tedesca. Ci faccia sapere poi come va a finire. Perché se il suo differenziale, Deborah, è positivo, è quello che sa il tedesco. Gli italiani che sanno il tedesco sono pochissimi. Ottimo, infatti, così almeno per una volta tanto la signora Merkel non si lamenterà di noi italiani. Silvia, faccia questo tentativo e poi ci racconti com'è andata. Cuore, denari e vitali, è giunto il momento della nostra iniziativa, il nostro appuntamento che vi permette di cimentarvi con la scrittura completando gli incipit del nostro amico, lo scrittore Andrea Vitali. Allora iniziamo con i racconti scelti per questa settimana, che sono quello di Serena Fasano per i denari e quello di Viola Cappelli per il cuore, che riceveranno un cofanetto Smartbox. Ora però andiamo ad ascoltare gli incipit per la prossima settimana. Potrete iniziare a inviare i vostri racconti in 24 righe, 2500 caratteri per la precisione, caricandoli come sempre nell'apposita pagina sul sito di Radio 24. C'è tempo fino alle 24 di martedì prossimo 8 aprile. Subito l'incipit di cuore. Nel mondo parallelo della virologia, un uomo oberato da troppe tasse confessa allo specialista infettivologo che da qualche tempo, pur covandone intenso desiderio, non gli riesce di avvicinare la moglie né tantomeno baciarla. Lo specialista si profonde in numerose domande che sconfinano anche dal suo campo, invadendo quello dell'andrologia. Ma l'uomo nega di avere problemi funzionali. E affinché il virologo gli creda, confessa, imbarazzandosi e diventando anche un po' rosso, che di recente ha avuto rapporti con altre donne e pienamente soddisfacenti. Il problema, ribadisce, è proprio in sua moglie, che da molto tempo, da mesi ormai, è affetta da un IRPEF labiale che sembra sempre sul punto di guarire e invece non scompare mai, ritornando invece bello rigoglioso. Il virologo, allora... E allora, se scegliete di completare l'incipit di cuore, ricordatevi di inserire la parola, ovviamente ne abbiamo scelta una a tema della puntata di oggi, cinquantenne, all'interno del testo, altrimenti il racconto non potrà essere preso in considerazione. Adesso andiamo all'incipit di denari. Nel mondo parallelo degli artigiani, un fabbricatore di specchi valutava la qualità del suo lavoro facendo specchiare la moglie. Se la vedeva bella e attraente come nella realtà, giudicava ben riuscito il proprio lavoro e lo metteva in vendita, ricavandone notevoli guadagni poiché i suoi manufatti erano molto ricercati. Un giorno, la bella e giovane moglie dell'artigiano, che aveva parecchi anni più di lei, gli chiese cosa sarebbe accaduto dopo, quando anche lei sarebbe invecchiata e la sua bellezza piano piano sarebbe sfiorita. L'uomo le rispose con un vago gesto della mano, a voler dire che non ci doveva pensare, non era mai successo, non sarebbe mai successo, perché... Se scegliete di completare l'incipit di denari, ricordatevi di inserire la parola reinventarsi all'interno del testo, altrimenti anche in questo caso il racconto non potrà essere preso in considerazione. Con Cuore Denari Vitali ritorniamo giovedì prossimo. Adesso l'ultima telefonata per la puntata di oggi, dedicata al lavoro, a chi lo perde fra i 40 e i 50 anni e fa fatica a rientrare nel mercato del lavoro. Tina dalla provincia di Milano ha una bellissima iniziativa e le dico già che Carlo Bassi mi ha detto farla venire a Back to Work 24. Tina, ci racconti subito. Pronto? Eccoci. Pronto? Eccomi. Buongiorno. Ecco, sì. Guardi, allora, le racconto brevissimamente. Io ho avuto diverse esperienze lavorative, una segretaria in una società americana, poi uno studio di architettura, eccetera, ma la passione della moda è sempre stata. Ho avuto un'attività, un negozio di moda in Val d'Aosta, in una località turistica, quindi diciamo che avevo la mamma che era un'esperta camiciaia, la nonna aveva vinto il gomitolo d'oro di Amica. Devo purtroppo io Tina l'ascolterei per ore, però per ore dobbiamo sintetizzare. E adesso vuole aprire la fattoria, perché? Perché? Perché ho già fatto la consulenza per una società di franchise nel 2009, abbiamo aperto un negozio pilota a Milano. Poi però dico, io me la voglio fare da sola, perché il franchise, oddio, non semi franchise, sono un po' una fregatura, io voglio fare un target più alto. Ah, factory, non factory, mi scusi Tina, qua sì. Evidentemente la barriera rosa oggi un attimo si è distratta. Non è l'agricoltura. No, esatto, infatti, factory. Allora Tina, la devo salutare perché chiudo fra 40 secondi. Che cosa rispondiamo? Datemi una mano perché non riesce a trovare una socia. Se cerca soci... si rivolga a noi anche solo per tentare, perché noi mettiamo insieme persone che vogliono coinvestire in nuove imprese. Ottimo, quindi una bella capatina al prossimo salone del franchising, se sta nell'area milanese, in particolare sarà nell'autunno. Non c'è bisogno di andare con uno stand, no, assolutamente, perché ci sono novità interessantissime da moltissimi punti di vista, nella produzione, nel commercio e nei servizi. Allora, la nostra trasmissione sta terminando, mi dispiace molto perché avrei voluto continuare a parlare, però io prenderò spunto dalle vostre iniziative e vi rimetterò molto presto insieme per dare suggerimenti pratici ai nostri ascoltatori in difficoltà. Soprattutto cerchiamo di guardare questo bicchiere, è difficilissimo, è durissima, mezzo pieno, perché sennò non sopravviviamo. Quindi scriveteci, che comunque io girerò tutte le vostre domande ai nostri ospiti di oggi. Grazie a tutti, saluto Nicoletta che torna lunedì, io invece torno domani con i mutui. Scriveteci.